sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 8 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.37 e tramonterà alle 19.31. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. Al via in regione una filiera per la carne da selvaggina. Nuova rubrica sul cibo e la cucina nella storia, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia. Cambiamento climatico e agricoltura, soluzioni possibili per adattarsi. La storia del settore primario attraverso le piante che lo hanno caratterizzato. La vinificazione continua e quella a caldo nella rubrica del vino. Nuovo ciclo di contributi sui grandi alberi e le foreste della regione. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Sta prendendo vita in regione una filiera della selvaggina, una filiera che raggruppi appunto una serie di realtà per la gestione controllata della selvaggina che si ha sul nostro territorio. Come sta nascendo? Lo chiediamo a Gianluigi Dorlandi, che è il presidente dell'ente tutela faunistica di Confagricoltura, che raggruppa le aziende faunistico-venatorie. È necessario in questo momento in cui si sta eradicando il cinghiale, cioè si fanno grandi abbattimenti di cinghiali e anche grandi abbattimenti di cervi perché sono in sovrannumero, è necessario dare la possibilità ai cacciatori di utilizzare la carne della selvaggina non solo per uso proprio o per regalarla, ma anche per poterla vendere. E quindi abbiamo messo in contatto due macelli, uno a Basigliano e uno a Soleschiano e Manzano, per fare in maniera tale che i cacciatori abbiano un punto di riferimento quando abbattono questa selvaggina in più, in maniera tale da poterla vendere, perché altrimenti non è consentito venderla se non passa attraverso un macello. Crediamo che questo sia di grande utilità per i cacciatori, perché prima di tutto per una ragione di salute, perché immediatamente la merce viene raffreddata e quindi la carica batterica si abbatte notevolmente. In più, questo dà la possibilità di essere ceduta o ai privati o ai ristoranti come opportunità di commercializzazione. E poi si tratta di una carne, chiamiamola così, tipica e sana. È una carne di grande valore nutritivo, è una carne senza grassi. In più è una carne che viene alimentata solo con prodotti naturali, perché la selvaggina mangia solo quello che trova nel territorio e quindi è di grande valore. Manzano e Basigliano per partire, ci saranno altri macelli? Noi speriamo che altri macelli si aggreghino a questa filiera della carne di selvaggina, proprio per dare l'opportunità a tutti i cacciatori del Friuli di Venezia Giulia di avere dei punti di riferimento per portare nel tempo più breve possibile dal momento dell'abbattimento la merce al macello e garantire appunto una salubrità delle carni. State pensando anche agli agriturismi? Stiamo pensando anche agli agriturismi, chiederemo alla Regione di modificare la normativa sull'agriturismo, la legge 25 del 96, per dare la possibilità alle aziende agrituristiche di considerare la selvaggina come produzione propria, per quindi offrire un prodotto di grande valore legato al territorio e soprattutto che dia la possibilità di un'offerta agrituristica ancora più ampia. Qualcuno potrebbe obiettare che ci sarà un maggior accanimento verso la fauna selvatica. Oggi è necessario abbattere i cinghiali non solo per i danni che fanno all'agricoltura, ma perché in questo momento è un momento molto delicato per la peste suina. È arrivata fino in Lombardia, dobbiamo salvaguardare gli allevamenti del Friuli Venezia Giulia di maiali, garantendo che i cinghiali non facciano da diffusori di questa gravissima malattia. Vita nei Campi inaugura oggi una nuova rubrica che si occupa di agroalimentare. Agroalimentare visto con le lenti della storia. Lo facciamo con Walter Zucchiati, formazione storica, saggista, e lo facciamo con il titolo Il capitulare de Villis di Carlo Magno, per vedere come anche i grandissimi personaggi abbiano in qualche maniera inciso sull'agricoltura e sul modo di mangiare e produrre. Il punto di partenza è appunto il capitolare de Villis, voluto da Carlo Magno intorno all'anno 800, è composto da 70 canoni con le istruzioni da osservare nelle tenute regie o ville al servizio del sovrano. Scorrendo alcuni canoni riguardanti la vita rurale, si vedrà che il pensiero, per quel tempo, era più contemporaneo di quanto si crede. Il canone 15 prevedeva la consegna dei puledri per San Martino, 11 novembre. Il 17 che ogni funzionario o iudex, giudice, avesse apicoltori in ogni tenuta da lui amministrata. Il 18 che i gestori dei mulini allevassero polli e oche in proporzione alla resa dell'opificio. Il 34 che tutto quello che veniva preparato a mano fosse confezionato con estrema pulizia. Lardo, carne affumicata, insaccati, carne salata, aceto, vino, vino di more, vin cotto, garum, una salsa piccante a base di pesce fermentato, senape, formaggio, burro, malto, birra, idromele, miele, cera e farina. Il 35 che dalle pecore grasse venisse tratta la sugna o grasso, come dai maiali, e che vi fossero sempre almeno due buoi ingrassati per utilizzarne la sugna e spedirli a corte. Il 44 che ogni anno venissero inviati alle cucine reali due terzi dei cibi magri, legumi, pesce, formaggio, burro, miele, miglio, panico, ortaggi secchi e freschi, navoni e radici. Il 45 che ogni funzionario avesse buoni artigiani nel suo distretto, pescatori, uccellatori, fabbricanti di birra e sidro, di liquori di pere e in genere di qualsiasi altra bevanda, fornai che sapessero fare il pane e, specificato, di semola. Il 48 che i torchi fossero ben costruiti e che la pigiatura dell'uva avvenisse nella massima pulizia. Il 61 che ogni iudex mandasse a palazzo il suo malto con gli specialisti per fare della buona birra. Infine il 66 che venisse comunicato il numero di capre e becchi e ogni anno mandata la carne salata tratta dalle bestie grasse. Nella prossima puntata esamineremo i prodotti coltivati negli orti delle tenute regie. Adattarsi al cambiamento climatico in agricoltura è il tema portante dei contributi di questa nuova stagione di Vita nei Campi per Cristina Micheloni. Se il cambiamento climatico non stia galoppando e che non condizioni pesantemente le nostre vite e ancor di più le vite di chi lavora in agricoltura è innegabile. L'imprevedibilità climatica è una spada di Damocle sulla sovranità alimentare e sulla sicurezza alimentare. Picchi di alte temperature, ritorni di freddo primaverili, lunghi periodi con caldo torrido, assenza di precipitazioni, eventi meteo estremi come grandine, piogge intense e concentrate in brevi periodi, tornadi e vento forte, tutto quello che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni, mettono a rischio tutte le colture e gli allevamenti, di conseguenza il lavoro agricolo e la sua redditività. Il che significa poter continuare a fare i contadini o gli allevatori, oppure no. A cascata, questo condiziona la possibilità di tutti noi di avere a disposizione cibo sano, buono, locale. Su quest'ultimo aggettivo vale la pena di aggiungere un tassello, poiché il cambiamento climatico è un problema ovunque. Di conseguenza anche le produzioni agricole a noi distanti sono a rischio. Quindi non ci venga la malaugurata e sciocca, sciocchissima idea di vedere una via d'uscita nell'importazione del cibo in futuro. Fine della predica domenicale, allora facciamo qualcosa. Come consumatori e come contadini qualcosa si può fare, ed è non nascondere la testa sotto la sabbia e da un lato riconsiderare le nostre abitudini alimentari, dall'altro sperimentare e applicare misure di adattamento al cambiamento climatico. Ci sono diverse esperienze, ed in questo i biologici sono in prima fila nella sperimentazione, ma anche la ricerca europea sta investendo sul tema, vi lascio alcuni link alla pagina Facebook della trasmissione. Questa stagione di Vita nei Campi la dedicherò proprio all'illustrazione di pratiche, tecniche ed idee con un piede nell'agronomia classica e uno nell'innovazione, proprio provare a condividere percorsi agricoli ma anche alimentari che ci possono dare un margine di tranquillità di fronte alla totale imprevedibilità climatica. Qualche esempio? Diversificazione, uso degli alberi per creare microclimi, fonti alimentari diverse per la zootecnia estensiva, sostanze a protezione delle foglie affinché non subiscano scottature, oppure modi diversi di potare, dove il suolo è sempre più protagonista. Infatti, proprio la gestione oculata del suolo può essere la chiave per accumulare acqua a sufficienza per far fronte a periodi di prolungata siccità, ma anche assicurare una struttura tale, del suolo stesso, da resistere alle piogge intense ed evitare pericolosi, dannosi e costosi fenomeni di erosione e frane. Sempre il suolo è il luogo dove ha più senso stoccare il carbonio, senza la necessità di inventarsi costose tecnologie, in modo da contribuire anche alla mitigazione del cambiamento climatico. Parte oggi una nuova rubrica di Vita nei Campi, una rubrica con una vecchia conoscenza della trasmissione, il professor Raffaele Testolin. Oggi presenterà un suo lavoro che sta per pubblicare, una storia dell'agricoltura per le piante che la hanno contraddistinta. È più un hobby perché non era il mio lavoro, però in questi anni ho letto e studiato anche molti libri di storia sulle piante coltivate ed ho girato il mondo con gli occhi di un genetista preoccupato della salvaguardia della diversità genetica delle piante che sono alla base dell'alimentazione umana. Allora, ho scoperto tre cose. La prima è questa. Tra 20 e 10.000 anni fa, o forse si può andare anche un po' più indietro, si sono sviluppate delle agricolture nelle diverse parti del mondo e l'uomo ha iniziato a coltivare le piante che trovava sul posto: cereali e legumi nella mezzaluna fertile, riso e miglio in Cina, patate, mais, fagioli e pomodoro nelle Americhe, banane e taro in Papua Nuova Guinea e così via. Invece, a partire dal XVI secolo, cambia il mondo. Le esplorazioni hanno avviato un processo di trasferimento di alcune specie dai centri di origine ad altre aree del pianeta per produzioni su scale amplissime mai viste prima. La seconda riguarda la triste tratta degli schiavi neri dall'Africa alle nuove colonie per soddisfare la necessità di manodopera per la coltivazione di cotone, tabacco, canna da zucchero e altro. E la terza riguarda la scarsa attenzione alla diversità genetica che ha accompagnato l'avvio su scala planetaria di queste nuove colture. Pensate che la produzione mondiale di caffè è stata avviata con qualche decina di semi rubati nello Yemen. L'avvio della coltivazione dell'albero della gomma è iniziata con un furto di semi raccolti da non più di 28 piante in Brasile. E gli esempi potrebbero continuare. E la nostra regione che parte ha in questa storia? Beh, è coinvolta perché insediamenti di popolazioni neolitiche che coltivavano cereali e anche leguminose sono stati scoperti in varie parti della regione. Pensiamo a San Mardenchia, pensiamo lungo il corso del Natisone, nella zona di Aurisina. La vite e il melo sono colture storiche in questa regione. Le spezie, dal pepe alla noce moscata, sono entrate nella cucina friulana come in tutte le cucine del mondo. Per non pensare poi cosa mettiamo nei chalsons. La vinificazione continua e quella a caldo. Prosegue l'attenzione sulle macerazioni dei pigiati del professor Roberto Zironi. La vinificazione classica con macerazione prevede delle operazioni complesse ed onerose. Per questo motivo sono state proposte delle procedure alternative per ridurre i costi. Una prima proposta della seconda metà del secolo scorso riguardava tecniche di vinificazione continua, o mediante una batteria di fermentatori comunicanti tra di loro, oppure, con un apposito serbatoio attrezzato, si metteva dal basso il materiale pigiato fresco e si estraeva dall'alto la vinaccia già macerata. Ogni giorno si rinnovava circa un quarto del volume globale e questo corrispondeva ad una durata di macerazione media di 4 giorni. I risultati ottenuti, qualitativamente poco interessanti, hanno però rapidamente ridimensionato l'entusiasmo dei sostenitori della tecnica. Nel corso degli ultimi decenni ha invece avuto un notevole sviluppo la tecnica della vinificazione con macerazione a caldo. Il riscaldamento delle uve pigiate favorisce la diffusione dei composti fenolici delle bucce. Applicando questa tecnica, La vinificazione per macerazione si divide in due fasi nettamente separate, una fase prefermentativa di estrazione e una seconda fase di fermentazione della fase liquida colorata. Alle temperature raggiunte, questa tecnica consente anche l'inibizione di numerose attività enzimatiche, in particolare viene inibita anche l'attività della laccasi e della botticinerea, e questo rende possibile la vinificazione con macerazione di uve colpite da marciume grigio. La laccasi è un enzima estremamente versatile, è molto solubile in tutta la massa del succo, anche quando le parti del grappolo con botticinerea sono integre, contamina quasi immediatamente tutto il succo ed è attiva anche su quelle componenti che provengono da acini sani. Pertanto è necessario effettuare vendemmie separate di grappoli sani e di grappoli con muffa grigia. Questi secondi potranno poi essere vinificati con macerazione a caldo per ottenere un vino stabile. I parametri di temperatura e di durata del processo sono diversi secondo che l'obiettivo sia quello di estrarre i costituenti della buccia o quello di inibire l'attività della laccasi. Utilizzando temperature di 70 gradi e mantenendo questa temperatura per tempi variabili tra 10 e 30 minuti, si ottimizza sia l'estrazione dei composti della buccia che la distruzione degli enzimi di ossidazione, riducendo allo stesso tempo le energie necessarie per il riscaldamento. Al termine della macerazione a caldo, le uve vengono sgrondo pressate ed il mosto colorato ottenuto viene fermentato a temperature inferiori ai 25 gradi centigradi. Ritorna anche quest'anno con l'ispettore della forestale Dario Di Gallo la rubrica dedicata ai grandi alberi. E oggi Dario ci fa un po' il programma delle prossime puntate di questa stagione. Dopo la pausa estiva di un'estate senza precedenti a livello climatico, ci ritroviamo in proiezione autunnale a discutere e riflettere su temi legati allo straordinario collage di ambienti, tutti diversi, rappresentati dal territorio della nostra regione. Nella serie di trasmissioni della passata stagione, il tema portante è stato quello della descrizione dei principali alberi monumentali catalogati e protetti nella nostra area. Descrizioni delle loro caratteristiche peculiari che non ha escluso una trattazione più generale degli ambienti in cui questi monumenti naturali sono inseriti. Saltuariamente poi abbiamo trattato temi legati alle stagioni o alla più stringente attualità. Nel nuovo ciclo che ci attende non avremo un unico tema trainante, ma andremo a gettare uno sguardo su varie finestre che ci permetteranno di avere una visione unitaria del nostro territorio, sempre più completa e affascinante. Tratteremo i boschi e le principali foreste nel loro insieme ecologico e territoriale. Parleremo dei parchi, delle riserve e delle aree protette, ed in generale delle aree meno conosciute e frequentate. Aggiorneremo le nostre conoscenze sulle norme di tutela e sui comportamenti più consoni da tenere nel tempo dello svago e del lavoro, con un occhio particolare ai temi faunistici. Conosceremo alcuni nuovi esemplari di grandi alberi e studieremo le caratteristiche dei principali corsi d'acqua, trattando anche la didattica e l'educazione, in particolare quella dedicata alle nuove generazioni. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 20,90 e 21,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 e 20 euro, l'orzo tra 17,50 e 18 euro. Rispetto ad un anno fa, il mais ha lo stesso prezzo. Il frumento è diminuito di 2,40 euro il quintale. Stabilità invece nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,35 e 3,95 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,75 e 3,35. Prezzi stabili pure nel settore dei vitelli da ristallo, con i Blubelga maschi che vengono quotati tra 7,20 e 7,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 5,40 e 6 euro, i frisoni tra 2,40 e 2,90 e i bruni alpini fra 1,70 e 2 euro. Il mercato dei suini ha confermato una tendenza diversificata, con i lattonzoli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda in calo a 3,74 euro il chilo IVA esclusa. I grassi da macello si quotano in aumento a 2,13. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine, giovedì scorso, ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 52 e 55 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha inoltre valutato il montaggio di 90 giorni fresco, tra 8 e 80, 9 e 10, quello di 4-6 mesi, semistagionato, tra 9,90 e 10 euro, con marchio di qualità, tra 10,90 e 11 euro, lo stagionato 12-15 mesi, tra 10,20 e 10,40, con marchio tra 11,20 e 11,40. Infine, prezzi in leggero aumento nel comparto degli avicunicoli, il valore dei poliatera oscilla tra 1,36 e 1,40 euro il chilo, IVA esclusa, quello delle anatre da 3,10 a 3,20. I tacchini maschi da 1,68 a 1,70, le faraone da 3,20 a 3,28, le uova oltre 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Settembre è iniziato con temperature molto elevate sulla regione. In continuità con il caldo degli ultimi due mesi abbiamo registrato valori medi fino a 5-6 gradi sopra la norma. Le temperature massime, che hanno raggiunto i 36 gradi sulla pianura, sono entrate nella classifica dei nuovi record per questi primi 7 giorni del mese. Anche la temperatura del mare, misurata a 2 metri di profondità, sta presentando valori record mai misurati in precedenza in questo periodo. A Trieste, presso il molo Fratelli Bandiera, sono stati misurati valori medi superiori di 5 gradi rispetto al normale, con medie giornaliere che, sfiorando i 28-29 gradi, sono uguali a quelle del Mar Rosso in Egitto. Tali condizioni sono favorevoli a fornire maggiore energia per lo sviluppo di temporali di forte intensità, qualora l'atmosfera diventi instabile. Giovedì scorso, un primo fronte ha fatto registrare un calo delle temperature, con piogge da moderate ad abbondanti. Oggi si avvicinerà un fronte mediterraneo, che passerà sulla regione nella prossima notte. In giornata saranno possibili dei rovesci sparsi. Dalla sera un deciso peggioramento provocherà probabilmente piogge intense o localmente molto intense e temporalesche, che proseguiranno fino alla prima mattina di domani. Nella prossima notte soffierà libeccio da sostenuto a forte con possibili mareggiate sulla costa. Domani in giornata cielo nuvoloso, con probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge in genere moderate, solo localmente abbondanti. Soffierà un po' di bora verso sera sulla costa e sulle zone orientali, quando è atteso poi un miglioramento. Martedì, con l'arrivo di correnti settentrionali un po' più fresche in quota, avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile montagna con la possibilità di qualche rovescio locale temporale. Mercoledì, l'avvicinamento di una nuova depressione atlantica potrebbe provocare un peggioramento, specie in serata. Dopo una giornata con cielo variabile, probabilmente arriveranno delle piogge da moderate ad abbondanti, prima sulla zona montana e poi anche su pianura e costa. Giovedì e venerdì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con piogge, ma l'intensità e la durata dipenderanno dallo sviluppo di questa depressione, la cui evoluzione sul Mediterraneo al momento non è così chiara. Le temperature caleranno un po' nelle ore notturne, ma di giorno rimarremo sui valori normali del periodo, con massime fra 25 e 28 gradi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Quantque gli spanoli se son vore cubiertis, al ventan fred, ovvero quando le pannocchie sono molto coperte, hanno tante bratee, verrà molto freddo. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.